loro reportage. COP21. Si apre a Parigi la conferenza sul clima, un'opportunità per salvare il pianeta che nessuno può lasciare intentata. Di Cristina Carpinelli. La COP21 è un rendezvous essenziale per l'avenir della planeta, per l'umanità. La COP21, la più attesa conferenza ONU sul clima, si terrà e si farà a Parigi nei giorni stabiliti. A dirlo, tre giorni dopo gli attentati di Parigi del 13 novembre, era il premier francese Manuel Valls. Tutti vogliono esserci, diceva al mondo intero Valls, che stiamo sentendo. La COP21 continuava, è un appuntamento fondamentale per il futuro del pianeta e per quello dell'umanità. Parigi, dunque, si prepara ad ospitare 150 capi di Stato e di Governo. Ci sarà all'apertura dei lavori il presidente russo Putin, quello americano Obama. Obama è di fatto il primo presidente americano che ha fatto del clima il suo argomento di punta, cambiando la mentalità di molti americani, soprattutto della media e alta borghesia. A Copenaghen, Obama tenne un discorso epico, bellissimo. That's why I come here today, not to talk, but to act. Questo è il momento di fare e non di parlare, diceva tra scroscianti applausi alla conferenza sui cambiamenti climatici del 2009. Eppure, quella di Copenaghen è forse la debacle, lo spettro che molti sventolano sulla porta di Parigi. In quel caso, infatti, si arrivò nella teoria a stabilire alcuni punti fermi, che però non furono mai formalizzati in un accordo vincolante e finale. La proposta di Copenaghen non era ritenuta equa dai paesi in via di sviluppo. Oggi a Parigi si è ribaltato il metodo. Ogni paese ha infatti presentato i suoi intenti per il clima. Quello che si farà nei negoziati sarà decidere chi farà di più rispetto alle intenzioni dichiarate. Ad esempio, la Russia sembra abbia avanzato proposte già definite inadeguate. L'Unione Europea dal 1990 al 2014 ha già ridotto le sue emissioni di gas serra del 23%, superando quindi il target fissato del 20% per il 2020. Ma per arrivare all'obiettivo del 40% per il 2030 dovrà fare molto di più. Le intenzioni dell'Europa rispetto a questo obiettivo sono contenute nel INDC, ovvero le dichiarazioni di intenti che ogni paese ha già consegnato a COP21. Ancora prima che inizi quindi la conferenza sul clima di Parigi, sappiamo già chi, come e cosa farà per abbassare di 2 gradi la temperatura della Terra. Questa è una strategia importante che potrebbe portare a un vero accordo globale sul clima. L'Europa ha già in cantiere nuove normative, a partire dalla riforma del mercato europeo delle emissioni. Intanto, la delegazione europea si prepara a partire. Giovanni Lavia, parlamentare europeo del nuovo centrodestra, è stato eletto presidente della Commissione per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza e sarà a Parigi. Il Parlamento europeo ha sostanzialmente fatto un percorso, perché ha fatto un rapporto di iniziativa verso la COP21 proprio per la lotta al cambiamento climatico e la conferenza delle parti. Abbiamo quindi lavorato a partire da questa primavera scorsa, durante tutta l'estate, e siamo arrivati a votare in plenaria un testo condiviso a larghissima maggioranza, che è chiaramente il mandato negoziale che seguiremo come delegazione del Parlamento europeo che io presiederò nell'ambito della COP21 di Parigi. Sostanzialmente siamo in linea con la proposta della Commissione, ma forse siamo un poco più ambiziosi, perché vorremmo che gli obiettivi che gli Stati membri della COP si danno in termini di riduzione dei gas a effetto serra siano degli obiettivi vincolanti. Di diverso avviso il parere di Monica Frassoni, presidente dei Verdi Europei. È proprio una questione di capire se l'Unione Europea vorrà davvero realizzare questi obiettivi. L'Unione Europea ha perso a livello globale la sua leadership in questo tema, perché si percepisce che non è particolarmente seria nella sua azione climatica. Questo ovviamente non significa che non abbia una posizione comunque più avanzata di altri paesi, ma che la sua capacità di traino che ha avuto per moltissimi anni è oggi più limitata, e tra l'altro dal punto di vista interno la capacità reale di accompagnare con delle normative, con delle direttive, il suo obiettivo di ridurre obbligatoriamente del 40% le emissioni da qui al 2030 è in dubbio. Ecco, poi c'è anche tutta la questione collegata a quanto ha investito in questi anni l'Unione Europea, per esempio sulle rinnovabili. Ma io penso che ci sia stato un cambio di passo che è uno spreco incredibile, e questo è vero in alcuni paesi più che altri. In Germania non è sicuramente così. Certo. In Francia, nel Regno Unito, le cose non stanno andando male, perché ovviamente loro partivano da livelli molto più indietro. Il caso, secondo me, peggiore è quello italiano. Ricordo che nel 2011 c'erano 120.000 persone che lavoravano nel settore delle rinnovabili. Oggi ce ne sono 60.000. Questo significa che noi abbiamo perso 60.000 posti di lavoro e si continua a dire che le rinnovabili sono care, quando nel nostro paese, ma è il caso uguale ovunque, i sussidi diretti e indiretti alle energie fossili, quindi petrolio, gas, eccetera, sono maggiori, se parla più o meno Legambiente parla di 12 miliardi di euro verso i 10 delle rinnovabili. A livello politico, se parliamo di clima, molte cose sono cambiate già rispetto a quanto avvenne a Copenaghen. Dunque, Obama è alla fine del suo mandato. A Parigi darà una spinta molto forte perché si arrivi a un accordo vincolante. Non solo. Questa volta, dalla sua parte, alla Cina, che nel frattempo si è messa a lavorare su ricerca e produzione, diventando leader delle rinnovabili. La Cina fa poi i conti coi suoi migliaia di morti per l'inquinamento e non può più ignorare la questione clima. Le pressioni e il malessere dal basso si stanno facendo pericolosamente troppo forti. Dunque, qualcosa è davvero cambiato. Il 29 ottobre a Bruxelles, ad esempio, la Commissione europea ha avviato la seconda fase dell'alleanza contro i cambiamenti climatici. A far partire questa nuova fase, il commissario europeo alla cooperazione internazionale allo sviluppo, Neven Mimica. To think of all those people who don't have electricity, who don't have access to the most basic services. Vorrei che tutti voi pensaste alle migliaia di persone che vivono senza elettricità e senza accesso ai servizi di base e che rischiano la vita per cose che noi abbiamo di fatto già ampiamente risolto. A queste persone i cambiamenti climatici hanno tolto troppo e reso la vita difficile. Troppe vittime, troppi rifugiati a causa dei cambiamenti del clima. Per questa ragione la Commissione ha deciso uno stanziamento forte dal 2015 al 2020. A sostegno dei paesi più vulnerabili, l'Unione Europea sbloccherà circa 350 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno gli investimenti di privati e gli investimenti pubblici nazionali che questo aiuto finanziario dovrà attrarre. È una priorità essenziale per l'Unione Europea quella di aiutare i paesi più vulnerabili e di sostenerli nella transizione verso delle economie verdi e sostenibili. Esistono degli esempi di successo incoraggianti che andremo a riprodurre e sviluppare nel corso dei prossimi anni. Il tema della tutela dei paesi in via di sviluppo è molto sentito dal mondo verde e dalle associazioni. Un mondo che avrebbe dovuto riunirsi nella grande marcia per il clima del 29 novembre, sospesa a causa degli attentati del 13. Resta però l'impegno. In prima linea c'è ATAC, il referente per l'Italia, e Marco Bersani. Ovviamente noi siamo molto critici su quello che si sta prefigurando rispetto a questo vertice, che ovviamente è un vertice fondamentale, perché il nostro del problema è quello di cominciare a considerare il debito ecologico che esiste sul pianeta, e cioè il fatto che la gran parte delle popolazioni del pianeta è stata espropriata dei beni comuni, delle risorse, della capacità di poter autodeterminare, diciamo, la propria produzione e la propria vita, e paradossalmente sono esattamente quelle le popolazioni su cui gli effetti del cambiamento climatico si scaricheranno maggiormente. E cioè, in buona sostanza, siamo ancora in una situazione in cui sono i grandi paesi, e cioè i grandi modelli industriali, a cercare le soluzioni a problemi che spesso hanno provocato loro. Noi infatti diciamo, insieme a tutti i movimenti mondiali, system change, not climate change, cioè diciamo occorre cambiare il sistema per cambiare il clima, perché ovviamente noi ci immaginiamo che anche COP21 cerchi sostanzialmente di prendere qualche impegno, questo ci auguriamo che avvenga, ma immaginiamo siano ancora impegni che non vanno a mettere in discussione il modello produttivo. E cioè, per dirla più chiaramente, se si vuole fermare il cambiamento climatico occorre cambiare drasticamente il modello di sviluppo, cioè occorre abbandonare l'idea della crescita intesa come unico obiettivo, ragionando sul fatto che esistono popoli e pianeti che hanno bisogno di crescita perché sono in condizioni di povertà estrema e che questo comporta che occorre una fortissima decrescita nei paesi più industrializzati. Il futuro del pianeta dunque si gioca a Parigi, dove la conferenza sul clima sta per iniziare. I punti più caldi restano i 2 gradi di aumento rispetto ai valori del 90. Quello che faremo, anche singolarmente, cambierà il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ed è ora che ognuno capisca che ciascuno può fare la differenza. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.